Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Maggioranza tiene, alla Camera approvata la fiducia sul milleproroghe. Non accetteremo un risultato insufficiente per l'Italia, così intanto Conte, in vista del Consiglio europeo sul bilancio, si annuncia un passaggio difficile per il nostro paese, dice il Premier. Coronavirus, inizia lo sbarco dei passeggeri della Diamond. Buona notizia in Cina, i guariti superano i nuovi contagi. Brexit dal 2021, niente visto a chi è senza qualifiche e non parla inglese. Il governo inglese annuncia il modello australiano per i migranti europei. Abbonamenti TV pirata denunciati per la prima volta in Italia, i clienti rischiano fino a 8 anni. Buongiorno Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con Effetto Giorno, il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Cominciamo dalla giornata politica, era un passaggio atteso in queste ore di fibrillazioni, di continue tensioni tra il Presidente del Consiglio Conte, la maggioranza PD, Movimento 5 Stelle, Leo e dall'altra parte Italia Viva di Renzi. Ebbene, parliamo del voto alla fiducia sul mille proroghe, una sorta di legge di bilancio bis con molti contenuti all'interno, ne parleremo tra poco. Il voto è stato superato, facciamo il punto con Vincenzo Miglietta, buongiorno. Eh sì, buongiorno, diciamo subito allora che il rischio strappo nella maggioranza al momento non c'è stato, eppure l'occasione per marcare la distanza era offerto dal voto di fiducia sul mille proroghe, provvedimento che in alcuni passaggi parlamentari aveva visto Italia Viva votare con le opposizioni. La fiducia è passata con 315 sì, ma la giornata, Alessio, sarà lunga, con l'appuntamento poi serale di Renzi a Porta a Porta. Secondo alcune fonti l'ex premier potrebbe alzare l'asticella, mettere alcuni paletti di fatto irricevibili dal Presidente del Consiglio Conte, considerato da Renzi all'origine dell'immobilismo dell'esecutivo. Si parla di richiesta di ritiro della riforma buona fede sulla prescrizione e cancellazione del reddito di cittadinanza e di quota 100. Da Palazzo Chigi si mostra comunque tranquillità. Il messaggio che Conte, d'intesa con i governisti del PD, vuole lanciare è che l'orizzonte è quello di legislatura. Di fronte poi ad un passo indietro dei renziani dal Senato giungono segnali di un gruppo di responsabili pronti a sostenere il governo qualora servisse. Dal centrodestra di fatto si resta a guardare, ma Salvini dice: se Renzi ha dignità, sfiduci Conte. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Dunque il voto di fiducia alla Camera superato sul milleproroghe, restano i battibecchi, le tensioni, ma torniamo invece ai contenuti del milleproroghe, dalle concessioni autostradali alle norme che regolano i monopattini. Sentiamo. Maggioranza 269, hanno votato sì 315, hanno votato no 221, la Camera approva. Via libera definitivo dunque alla conversione in legge del decreto mille proroghe, 434 commi sulle più diverse materie. Per le autostrade indennizzo ridotto in caso di revoca della concessione, che per Autostrade per l'Italia significa incassare solo 7 miliardi di euro anziché 20. C'è poi la proroga fino al 1 gennaio 2022 per il mercato protetto di energia elettrica e gas per utenti domestici e microimprese, la conferma per quest'anno del bonus giardini e del bonus per l'acquisto di auto elettriche, ma con criteri più selettivi. Frenata per i monopattini elettrici rispetto alla legge di bilancio, restano equiparati alle bici, vietati sotto i 14 anni, con obbligo di casco fino a 18. C'è poi un corposo pacchetto per le imprese in crisi, 140 milioni di euro per rifinanziare la cassa integrazione, all'ex Silva e nelle aree di crisi in Campania e Veneto. Riaperti inoltre fino a fine 2020 i termini per stabilizzare i precari della PA. I medici infine potranno restare al lavoro fino a 70 anni. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sempre per la politica, in mattinata il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riferito in merito alla riunione del Consiglio europeo di domani sul bilancio europeo. Un passaggio difficile per l'Italia, ha detto Conte. Sentiamo perché. L'attuale proposta di bilancio pluriennale europeo, se restasse così com'è, sarebbe una sconfitta non tanto contabile ma politica. Il Premier Conte interviene così nell'aula del Senato in vista del Consiglio straordinario europeo che dovrà trovare un compromesso sul bilancio comunitario 2021-2027. Non siamo disposti ad accettare, in nome di una rapida conclusione del negoziato, un bilancio europeo insufficiente per il futuro dei nostri cittadini. Auspico un'Europa più forte al suo interno e nei confronti dei suoi partner globali, dice ancora Conte, nessun accenno alle questioni interne, e dopo il suo intervento la parola passa a Matteo Renzi, che non nasconde le divisioni interne ma invita a superarle, almeno sulle questioni europee. Pensare che le fibrillazioni interne della politica nazionale possano portare una qualche presa di distanza sulle questioni europee sarebbe un atto gravemente sbagliato. E sull'Europa intervengono anche le opposizioni. Serve un bilancio decisamente più ambizioso, dice Forza Italia, mentre la Lega è preoccupata per la litigiosità della maggioranza che rende l'Italia poco credibile in Europa. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Si sta concludendo in questi minuti il consiglio di amministrazione di UbiBanca, molto atteso dopo l'offerta di Intesa San Paolo sull'intera banca, un'offerta da quasi 5 miliardi di euro. Ubi era chiamata ad esprimersi su questa offerta, che non è stata giudicata ostile ma nemmeno concordata. Sentiamo. Riflettori puntati oggi sul consiglio di amministrazione di UBI, che si è riunito per discutere l'offerta pubblica di scambio non sollecitata lanciata da Intesa San Paolo. Potrebbe nascere la terza banca europea per capitalizzazione di mercato con 1,1 trilioni di euro di risparmio degli italiani in gestione. Siamo una banca ambiziosa, ha detto il presidente di Intesa Gian Maria Grospietro a chi gli chiedeva se in questo scenario pensa ad altre mosse nel risico bancario. E sempre a margine dell'esecutivo dell'ABI, la presidente di MPS Stefania Bariatti ha commentato l'offerta di Intesa su UbiBanca ha sorpreso tutti. Non commenta invece un'operazione in corso il ministro dell'economia Gualtieri, ma spiega che è importante che ci sia un consolidamento del nostro sistema bancario ed è bene che la politica sia fuori. E all'uscita dal CDA di Ubi, il primo commento che filtra è quello di Ferruccio Dardanello, consigliere di Ubi. L'offerta di Intesa è sorprendente, ha detto, abbiamo preso atto di quello che è successo, e lasciando l'istituto dove ha partecipato al CDA, convocato dopo l'offerta da parte di Cadisas, attraverso la quale diventerebbe proprietaria al 100% della quarta banca del paese, ha aggiunto, l'offerta arriverà, indicando che non è stato ancora dato mandato ai consulenti legali e finanziari. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Staremo dunque a vedere anche nel corso della puntata di oggi di Effetto Giorno se al termine del consiglio di amministrazione di UbiBanca ci saranno delle dichiarazioni ufficiali dopo l'offerta di Intesa San Paolo. Siamo invece alla pagina sul coronavirus. Saranno sbarcati oggi pomeriggio gli italiani a bordo della Diamond Princess sul porto di Yokohama in Giappone. Saranno poi portati in Italia, dove dovranno fare 2 settimane di quarantena anche loro. E intanto dalla Cina arrivano buone notizie. Facciamo il punto con Rosanna Magnano. Sì, buongiorno. In Cina per la prima volta ieri il numero di persone guarite, 1824, ha superato i nuovi casi accertati, pari a 1749. Se il trend dovesse continuare potrebbe significare che il picco dell'epidemia è stato oltrepassato. Non si fermano invece i contagi sulla Diamond Princess, la nave ancorata nella baia di Yokohama, dove altre 79 persone sono risultate positive al coronavirus. Salgono così a 621 i contagiati, tra i quali ricordiamo un italiano di 72 anni che tornerà in patria con un aereo speciale in una barella ad alto biocontenimento. Intanto, come dicevi, procedono le operazioni di sbarco, che dovrebbero durare 3 giorni, dei passeggeri sani, compresi una ventina di italiani. E nella notte è partito da Ciampino, con arrivo previsto alle 15 ora italiana, il volo per il Giappone con a bordo un team sanitario che conta anche 2 medici dello Spallanzani di Roma, un anestesista e una infettivologa. La squadra andrà a soccorrere gli italiani da rimpatriare, per i quali è previsto, come ha chiarito il Ministero della Salute, un periodo di quarantena anche in Italia. È tutto. E grazie anche a Rosanna Magnano. Adesso gli sviluppi della Brexit. Niente visto per chi non sa parlare inglese e non è sufficientemente qualificato. Un sistema a punti che darà la precedenza a scienziati, ingegneri e accademici. E questo il modello annunciato dalla Gran Bretagna per accogliere i migranti europei a partire dal 2021. Un modello australiano atteso, era già stato in qualche modo annunciato ed è stato invece confermato oggi dalla ministra dell'Interno Prati Patel. Siamo di nuovo in Italia con una maxi inchiesta della Guardia di Finanza. Abbonamenti televisivi pirata denunciati per la prima volta in Italia. I clienti, bene, rischiano addirittura il carcere fino a 8 anni. Finora era stato arrestato o denunciato chi aveva creato e organizzato piattaforme per vedere in modo pirata via internet i contenuti, serie TV, film o eventi sportivi delle più note pay TV come Sky, Netflix o DAZN. Ora la Guardia di Finanza ha denunciato per la prima volta direttamente i clienti di queste piattaforme pirata, a volte chiamate in gergo pezzotto. Sono 223 quelli denunciati che, se condannati, potrebbero rischiare la confisca degli strumenti utilizzati come TV o smartphone, ma soprattutto la reclusione fino ad 8 anni e una multa fino a 25.000 euro. L'attività investigativa è ancora in corso e quindi il numero di persone individuate e denunciate potrebbe aumentare. Gli abbonamenti pirata si trovano anche online su siti come eBay e possono costare pochi euro al mese, 5 o 10, a fronte di abbonamenti ufficiali che possono valere in alcuni casi anche decine di euro al mese. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E una truffa è stata scoperta oggi anche dalla Guardia di Finanza di Torino, che ha sequestrato oltre 1000 slot machine in tutta Italia. Slot machine manomesse con vincite diminuite e fisco aggirato. Ne parleremo tra poco nella seconda parte di Effetto Giorno. Inizia invece oggi a Bari il cosiddetto G20 dei Vescovi, una sorta di sinodo mediterraneo in cui i vescovi cattolici di 20 paesi che si affacciano sul Mediterraneo si riuniranno per parlare delle emergenze di oggi, dai conflitti alle migrazioni, il vertice che si chiuderà domenica con l'intervento di Papa Francesco. Katia Caramelli ha chiesto al vescovo di Bari, Monsignor Francesco Cacucci, quali sono le attese. I vescovi qui a Bari sono una sessantina, provenienti proprio da 20 paesi bagnati dal Mediterraneo, quindi non solo l'Europa ma anche l'Asia e il Nord Africa. Papa più volte negli ultimi tempi ha messo in guardia da quella che chiama una nuova guerra mondiale a pezzetti. A pezzetti, sì. Infatti, quando è venuto qui a Bari il 7 luglio del 18 per incontrare i capi delle chiese e delle comunità cristiane del Medio Oriente per fare una riflessione, ma anche una preghiera per la pace, un momento altissimo, e lui si è introdotto con queste parole, ha detto: l'indifferenza uccide, no? E noi vogliamo essere voce che contrasta l'omicidio dell'indifferenza. 13-12 minuti, facciamo una pausa, Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie. Torneremo in diretta qui da Verona, da Progetto Fuoco, da dove oggi trasmettiamo in diretta il più importante evento di impianti di produzione calore ed energia. Faremo il punto su questo settore. In Italia ci sono alcuni milioni tra impianti di riscaldamento, camini a legna e stufe a pellet, un settore atteso però ad un importante rinnovamento tecnologico in grado di diminuire le emissioni più inquinanti, che come sappiamo sono una parte importante dello smog nell'aria. Parleremo anche nella seconda parte di Effetto Giorno dell'ambulatorio, il primo forse in Italia per il coronavirus nel nostro paese, a Sesto Fiorentino, tra alcune polemiche. Poi, per quanto riguarda il calcio, la Champions attesa per la partita di stasera dell'Atalanta a Milano contro il Valencia. 349-238-6666 per i vostri messaggi, vi aspettiamo anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, tra poco in diretta da Verona. Effetto Giorno. Queste notizie di oggi, mille proroghe, la maggioranza tiene approvata la fiducia alla Camera. Coronavirus, inizia lo sbarco dei passeggeri dalla Diamond, compresi gli italiani. Buona notizia, in Cina i guariti superano i nuovi contagi. Brexit dal 2021, niente visto a chi è senza qualifiche e non parla inglese. E questo è il modello australiano annunciato oggi dal governo inglese. Abbonamenti TV pirata denunciati per la prima volta in Italia. I clienti rischiano fino a 8 anni di carcere e una multa di 20.000 euro. Torino, sequestrate migliaia di slot machine manomesse, riducevano le possibilità di vincita e non restava alcuna traccia per il fisco. 13:15 minuti, nuovo buongiorno Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Effetto Giorno, oggi in diretta da Progetto Fuoco, la fiera degli impianti di riscaldamento e produzione di energia di Verona. Ne parleremo tra poco, un settore importante atteso, come dicevamo nel sommario poco fa, ad un rinnovamento tecnologico, perché come sappiamo i riscaldamenti, e sono quasi 10 milioni gli italiani che si riscaldano con questo tipo di tecnologie, sono una parte importante poi anche delle emissioni nella nostra aria. Ma come avete sentito dai titoli, c'è stata una importante operazione della Guardia di Finanza di Torino oggi, che ha portato al sequestro di un migliaio di slot machine che erano manomesse, riducevano dunque la possibilità di vincita, ma non solo. Ne parliamo con il capitano Arrigo Galvan, comandante del secondo nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza di Torino. Benvenuto. Grazie, buongiorno ai radioascoltatori. Sì, oggi abbiamo diramato un comunicato stampa che va a consentivare un'attività che è stata svolta sia da noi insieme a 96 comandi provinciali in tutta Italia, che è nata da un esposto presentato da una società leader nella produzione di schede di gioco, quindi delle AVP, le slot machine, che avevano rilevato alcune anomalie. Poi noi abbiamo capitano, giusto per chiarire, quindi il contesto è quello di una società che opera legalmente nel settore delle slot machine, che denota una strana, diciamo così, concorrenza probabilmente da parte di altri operatori, che il sospetto è che agissero illegalmente. Partono le indagini mi perdoni se la correggo. In verità la società produttrice si accorge che su alcuni suoi dispositivi ha avuto notizia che sono state commesse delle alterazioni. Delle alterazioni, perfetto. Sì, sia di tipo hardware che di tipo software. Quindi, può spiegare quanti apparecchi sono stati sequestrati, quanti slot machine sono entrate nel minimo di questa inchiesta? L'attività è ancora in corso, però a fronte di 3.000 apparecchi che avevano delle fortissime anomalie, tali anomalie sono emerse grazie al cruciale contributo che ci ha reso anche dai funzionari di Agenzia Dogane dei Monopoli e del partner tecnologico di Sogei S.p.A., che ha su un bacino di oltre 51.000 schede che erano di un certo tipo e quindi potevano essere manomesse, ha verificato grossi scostamenti su quello che era il trend di raccolta e di distribuzione attraverso le banche dati, sia in uso al corpo sia quelle di ADM e del produttore delle schede. Quindi, fatto questa scelta e fatti alcuni pescaggi sul territorio, abbiamo limitato quindi la ricerca su dei dispositivi ben specifici. In questo caso cosa avveniva? Dei gestori avevano trovato un software che poteva essere attaccato alla scheda, quindi all'hardware, alla scheda gioco, e questo software cambiava quella che erano le chance per i giocatori di vincere. Le chance sono normativamente previste e quindi il giocatore di fatto vedeva ridursi le possibilità di vincere. La differenza tra quello che era normativamente previsto e quello che in realtà avveniva su queste schede veniva incassata direttamente dal gestore, oppure in tanti casi ai service. Cosa sono? Sono dei soggetti che tramite un contratto vengono utilizzati da grossi gestori, quindi proprietari di numerosissime schede, per effettuare le varie manutenzioni periodiche. Diciamo che dal punto di vista, mi scusi capitano, dal punto di vista naturalmente di chi insomma o gioca, si usa questa parola giocare, anche se spesso basta osservare, non è che ci sia molto di divertente, ma insomma che utilizza le slot machine per tentare la sorte e magari portarsi a casa qualche spicciolo o anche qualche gruzzoletto, dal punto di vista appunto degli utenti, che cosa si poteva notare? Si poteva notare una differenza o era, diciamo, la truffa era così sottile che era impercettibile, era impossibile accorgersi, diciamo, della differenza tra quello che normalmente sono le vincite e quello che invece veniva effettivamente ovviamente poi riscosse. Allora, diciamo che il giocatore deve sapere che in primis il banco vince sempre, sia nel caso delle schede non contraffatte che nelle schede contraffatte. C'è da dire che lo Stato però ha regolamentato in maniera equa. Il giocatore non aveva modo se non nel vedere ancora più limitate le possibilità di vincita su questi apparecchi da intrattenimento. C'è da dire che ci è stato dato un grande supporto anche da parte delle associazioni di categoria, quindi una massima collaborazione proprio sì, per tutelare il giocatore nelle modalità previste dalla legge. Chiarissimo, noi la ringraziamo, il capitano Arrigo Galvan della Guardia di Finanza di Torino, grazie per essere stato con noi, per averci raccontato. Dunque state anche all'occhio, se vi capita di entrare in un bar e giocare, tentare la sorte con la slot machine, perché oltre, diciamo, a quello che ricordava il capitano, che il banco vince sempre, quindi normalmente si perde, in questo caso si perdeva ancora di più. Le 13:22. Allora, intanto un aggiornamento, una notizia, un tema che abbiamo trattato a effetto giorno, che è la ricostruzione del ponte sul Polcevera a Genova dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi, come naturalmente ricorderete. Ebbene, i lavori procedono in tempo, nei giusti tempi, ed è stata completata proprio in queste ore la costruzione di tutte le pile del nuovo ponte su Polcevera. Si tratta di 18 torri di cemento armato, alte una quarantina di metri, su cui poggiano gli impalcati, i vari impalcati che devono essere posti, alcuni sono già stati posti, in particolare sono stati completati 550 metri circa la lunghezza complessiva del nuovo viadotto, che sarà 1067 metri. I lavori, a quanto si apprende, quindi stanno procedendo nei tempi previsti. E adesso una notizia che può essere anche una informazione di servizio, una buona notizia, perché a fronte di un tema come quello dell'agricoltura italiana da rilanciare, soprattutto tra le nuove leve, tra i giovani, la buona notizia è questa: ecco, l'asta dei terreni agricoli abbandonati in carico all'ISMEA, che è l'Istituto dei Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, e c'è appunto una corsia preferenziale per i giovani, ce ne parla Laura Bettini. 386 terreni per una estensione complessiva di 10.000 ettari sono da oggi all'asta. Appartengono alla Banca Nazionale delle Terre Agricole di Ismea, nata con la finanziaria 2016 per rimettere in circolo i terreni pubblici in stato di abbandono. È il terzo e più corposo lotto di terreni che va all'asta da quando è stata creata la banca. Molti sono nel sud Italia. Si va dai vigneti ai campi di cereali, con una superficie media di 26 ettari, ha detto Raffaele Borriello, direttore di Ismea. E alcune aziende sono chiavi in mano con tanto di immobili e possono dare profitto fin da subito. Dalla vendita di questi 10.000 ettari ci attendiamo un valore minimo di 130 milioni di euro. Denaro che verrà reinvestito nel supporto ai giovani che vogliano entrare in agricoltura, perché se l'asta è aperta a tutti, sono i giovani e le donne in particolare gli obiettivi dell'operazione, ha specificato la ministra dell'Agricoltura Bellanova. Per gli under 40, quindi, previsti mutui agevolati e finanziamenti per l'avvio. L'elenco dei terreni è disponibile sul sito della Banca Nazionale della Terra e l'ultima data utile per le manifestazioni di interesse è il 19 aprile 2020. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Eccoci qua, 13:25. Nuovo buongiorno Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati. Un aggiornamento sulla una delle notizie con cui abbiamo aperto questa puntata di Effetto Giorno. Per quanto riguarda la pagina politica, sapete che è stato approvato il mille proroghe, il voto di fiducia sul mille proroghe. C'erano state anche le comunicazioni del Presidente del Consiglio Conte sul bilancio comunitario, e c'è molta attenzione naturalmente anche per i numeri con cui queste votazioni avvengono. La fiducia è stata approvata alla Camera con 315 voti favorevoli, 220 contrari, quindi un'ampia maggioranza. Al Senato, dove i numeri della maggioranza sono molto più risicati e dipendono molto di più dalla tenuta complessiva della maggioranza, Italia Viva compresa, ebbene poco fa il Senato ha approvato la risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni del Premier, diciamo, sul bilancio comunitario, con 150 voti favorevoli, 101 contrari e 13 astensioni. Quindi dunque è stato anche in questo caso superato lo scoglio della maggioranza da parte del governo in queste che, ripetiamo, sono ore particolarmente delicate e sensibili. Un altro rapido aggiornamento che riguarda invece il coronavirus: gli italiani sulla Diamond Princess per ora restano a bordo e non sono tra i passeggeri che stanno lasciando in queste ore la nave da crociera. Dunque, contrariamente a quanto avevamo invece annunciato, non sono, diciamo, tra i primi che vengono fatti sbarcare proprio in questo momento, perché secondo quanto si apprende da fonti informate in Giappone, i connazionali italiani attenderanno il team dei medici in arrivo dall'Italia tra poche ore, con l'aereo che è decolato invece ieri sera da Ciampino per fare tutti i test necessari. 13:26, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con Effetto Giorno, tutte le altre notizie, 349-238-6666 per i vostri messaggi, tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. La maggioranza tiene, approvata la fiducia sul milleproroghe alla Camera e le comunicazioni di Conte al Senato. Coronavirus inizia lo sbarco dei passeggeri della Diamond, gli italiani invece dovranno attendere ancora in Cina, i guariti intanto superano i nuovi contagi. Brexit dal 2021, niente visto a chi è senza qualifiche e non parla inglese, è il modello australiano per i migranti annunciato oggi dal governo britannico. Abbonamenti TV pirata denunciati per la prima volta in Italia, i clienti rischiano fino a 8 anni di carcere. A Sesto Fiorentino apre un ambulatorio per chi è appena rientrato dalla Cina e presenta sintomi influenzali, ma i vicini si ribellano. A Effetto Giorno, il direttore prevenzione dell'ASL Toscana. Di nuovo buongiorno ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno. Oggi trasmettiamo da Verona, dove si svolge, dove siamo ospiti di Progetto Fuoco, il più importante evento al mondo nel settore degli impianti, delle attrezzature per la produzione di calore ed energia dalla combustione di legna. 12ª edizione, tantissime aziende presenti, oltre 800, il 40% di queste sono aziende estere e provengono da diversi paesi al mondo. Ne parliamo con Raul Barbieri, che è direttore generale di PMT, la società di Verona Fiere che organizza Progetto Fuoco. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Allora, grazie. Intanto i dati del settore, un settore che forse può risultare poco conosciuto a chi, la maggioranza credo degli italiani, non usa in casa impianti di riscaldamento di questo genere, però gli italiani che si riscaldano con camini, stufe o impianti che usano legno o pellet sono quanti in Italia? Il 25% degli abitanti utilizza sistemi di riscaldamento a legna o pellet. Questo è un settore che vale 4 miliardi di euro, è un settore di 72.000 addetti, 14.000 imprese, quindi è un settore molto importante, un settore dove il Made in Italy rappresenta l'eccellenza nel mondo. Ecco perché a Progetto Fuoco ci sono tutti gli operatori internazionali, perché qui si raduna appunto forse anche l'eccellenza proprio internazionale in questo settore. Un settore però che, Barbieri, naturalmente è anche diciamo così, attenzionato per la questione delle emissioni, perché tutti gli impianti di riscaldamento, lo sappiamo, lo abbiamo appreso, forse come più del trasporto, contribuiscono al discorso delle emissioni nell'aria e quindi allo smog. Ecco, senza tanti giri di parole, intanto voi siete consapevoli quant'è il contributo anche in particolare, perché il legno, sappiamo, in particolare è un grande inquinante, il pellet di qualità invece lo è molto meno, ci sono stufe di grande tecnologia e qui c'è il tema dell'innovazione tecnologica. Partiamo dalla consapevolezza, ci sono dati, numeri su questo tema? Sì, la consapevolezza è molto forte, le aziende sanno che come tutti i processi di combustione, anche quello del legno e del pellet in particolare, può comunque creare emissioni in atmosfera. L'impegno delle aziende e la consapevolezza sta nel miglioramento tecnologico, nel miglioramento dell'efficienza e della qualità dei materiali, un grande investimento in ricerca e sviluppo e la spinta verso il turnover tecnologico, quindi sempre di più incentivare la rottamazione dei vecchi impianti per sostituirli con impianti di nuova generazione che consentono una riduzione delle emissioni e un miglioramento dei rendimenti. Quanti sono in Italia le vecchie stufe, quegli impianti vecchi che credo che se fosse per voi, naturalmente voi con gli incentivi che ci sono, ma insomma in qualunque modo sareste i primi a voler intervenire per cambiare, perché ovviamente, è il mercato, no? Ovviamente, però quanti sono? Si parla di 500.000, 400.000 vecchie stufe che noi in un gergo chiamiamo le stufe della nonna. Sono ai ritmi con cui il mercato si sta vendendo, sono 20 anni di lavoro per poter sostituire queste stufe, e ci sono incentivi molto forti, nel senso che quando tu sostituisci una vecchia stufa inquinante a gasolio o a legna con prodotti di nuova generazione si può accedere agli incentivi del conto termico, che arrivano fino a 5.000 euro. Arrivano, però, cioè no, arrivano, poi arrivano veramente, certamente. C'è il portale del GSE, che è l'organizzazione del Ministero dell'Ambiente che consente che monitora, di ottenere, certo, che monitora questo, ha un portale dove tu puoi caricare la tua pratica e dentro 30 giorni massimo tu ottieni in contanti subito con un bonifico ottieni il tuo contributo, che ovviamente dipende dalla zona climatica dentro la quale vivi e dalla potenza dell'impianto che tu vai a comprare. Senta, un'ultima cosa prima di salutarci con il direttore generale del PMT che organizza Progetto Fuoco qua a Verona, Raul Barbieri, il tema dell'approvvigionamento del materiale, no? Perché noi sappiamo che il legno e i derivati hanno il pregio di essere materiali rinnovabili, quindi sono una fonte, diciamo così, di materia prima energetica rinnovabile, ma a patto che ci sia, come dire, una giusta manutenzione anche dei boschi e soprattutto dei boschi dove si produce il legno. In Italia da questo punto di vista come siamo, diciamo, come siamo messi? Allora siamo messi bene, brutale. Nel senso che la superficie boschiva è aumentata del 50% negli ultimi 50 anni, quindi c'è un accrescimento del bosco anche per motivi diversi legati allo spopolamento delle aree montane, certo. Quindi una crescita del bosco. Quello che viene fatto in Italia è il prelievo dell'accrescimento. Se noi consideriamo di prelevare e quindi di utilizzare per fini energetici soltanto l'accrescimento del bosco, noi non danneggiamo quello che è il patrimonio boschivo. In Italia soltanto il 18% dell'accrescimento viene utilizzato per fini energetici. In Austria siamo oltre l'80%, quindi abbiamo molte possibilità di migliorare in questo senza danneggiare il nostro bosco. Chiarissimo, molto bene, grazie a Raul Barbieri che ci ha illustrato alcuni degli aspetti legati a questo settore, Progetto Fuoco, grazie per essere stato con noi. Noi rimaniamo invece in diretta qua da Verona, ma ci sentiamo il punto del vice direttore del Sole 24 Ore. Il punto di Alberto Orioli. Il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, ha lanciato un altolà. Il taglio al cuneo fiscale costa 7,1 miliardi e non 6 come previsto dalla legge di bilancio. Non è un altolà di prammatica o solo formale, è uno stop secco alla riforma fiscale con cui il governo Conte II vorrebbe passare alla storia. Già, perché il Premier e il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri hanno più volte annunciato di voler arrivare a una vera riforma fiscale complessiva, con tanto di disboscamento delle troppe eccezioni e con tanto di semplificazione vera nel rapporto tra fisco e contribuenti. Lo spread ci sta graziando e ha consentito al governo di accantonare un risparmio intorno ai 3 miliardi, ma è già stato bruciato dalla minore crescita che purtroppo frena il PIL per quest'anno e per il 2021. Il vero bacino sono i 109 miliardi di evasione fiscale, dice Gualtieri, ma lo dicevano anche altri prima di lui e purtroppo quel tesoretto del malcostume è ancora lì. Sarebbe davvero assurdo se si concludesse che per fare la riforma si dovesse interrompere o ridurre il taglio al cuneo fiscale, ma forse è utile un'operazione verità sui conti e sul debito che tendiamo a dimenticare, ma è ancora lì con la sua ombra nera incombente. Senza contare che nel prossimo biennio pesano altri 40 miliardi di famigerate clausole IVA da disinnescare. 13:40 minuti, nuovo buongiorno Alessio Maurizi, cari ascoltatori, siamo in diretta con Effetto Giorno. Piccolo aggiornamento, piccola pagina dedicata al coronavirus. In Toscana apre un ambulatorio per i cittadini che rientrano in Toscana dalle aree cinesi e presentano sintomi influenzali, che diciamo che noi sappiamo forse è il primo ambulatorio di questo genere, forse nel nostro paese, dedicato esclusivamente ai sintomi del coronavirus. Ne parliamo con Renzo Berti, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Toscana Centro. Buongiorno. Buongiorno. Senta, la prima domanda che le faccio è questa. In Italia i casi riscontrati di contagio vero e proprio di coronavirus sono stati pochissimi, veramente pochi. Perché avete comunque deciso invece a questo punto di aprire questo ambulatorio dedicato a Sesto Fiorentino? È una misura preventiva, perché in effetti, come dice lei, abbiamo soltanto 3 casi in Italia e tutti in importazione. Però c'è molta preoccupazione, abbiamo anche una casistica di persone che si rivolgono normalmente al pronto soccorso per avere valutazioni e interventi che sono, diciamo, percorsi impropri. Quindi noi abbiamo pensato, soprattutto nell'intento di tranquillizzare queste persone, che nella generalità dei casi sono persone che hanno una banale influenza, di prevedere questo tipo di soluzione che nel giro di poco tempo dalle risposte attese. Ecco, siamo alle battute iniziali, perché credo che abbiate aperto proprio in queste ore. C'è già una casistica, un numero di persone da raccontare? Abbiamo avuto una prima esperienza, tra l'altro un cittadino italiano che era rientrato dalla Cina sabato scorso, sì, che si era posto in autoquarantena, in questa, diciamo, termine improprio con cui si intende l'isolamento domiciliare volontario, che però ha avuto una comparsa di una tosse. Aveva la preoccupazione, è venuto qui come era necessario con la mascherina, è stato valutato, è stato prelevato il campione respiratorio che è stato inoltrato al laboratorio di microbiologia dell'azienda ospedaliera, e nel pomeriggio potremo dirgli, io credo senz'altro, che può stare tranquillo. Che è tutto a posto, speriamo. Senta, dottor Berti, ricordo direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Toscana Centro, al momento dell'annuncio di questo, della costruzione, della nascita di questo ambulatorio dedicato, di questo sportello dedicato proprio a chi presenta sintomi influenzali del coronavirus, ci sono state anche delle polemiche, se abbiamo capito bene, vicini di casa, residenti della zona o addirittura dell'immobile, che hanno chiesto garanzie, hanno protestato anche vivacemente, chiedendole le garanzie per loro. Cosa avete risposto? Come giudica queste preoccupazioni, dottor Berti? Una forma di psicosi ingiustificata o giuste, richieste di sicurezza? Allora, intanto l'attività si svolge non in locali, diciamo, strani, questa è una porzione di un'attività medica, un centro diagnostico che già esisteva, e abbiamo ritagliato una porzione a dedicare esclusivamente a questo fine. L'immobile dove è collocato non prevede residenze, ci sono soltanto uffici, e sono coloro che, insomma, si sono resi portavoce di questi uffici che hanno esposto le loro preoccupazioni in modo talvolta anche concitato. Abbiamo fatto presente che sono preoccupazioni totalmente infondate, perché, come è noto, come dovrebbe essere noto, il contagio si sviluppa soltanto attraverso un contatto stretto con una persona affetta dal morbo. Oggi il virus non circola, come lei ricordava all'inizio. Il contagio stretto è un contatto ravvicinato e prolungato, e quindi non c'è davvero un problema né motivo di preoccuparsi. Chiarissimo. Grazie al dottor Berti dell'ASL Toscana Centro per averci raccontato il primo ambulatorio dedicato al coronavirus in Italia, a Sesto Fiorentino. Grazie a voi. 13:44 minuti è il momento, la pagina sportiva, breve pagina sportiva. Carlo Genta, ciao Carlo, oggi ciao, noi siamo in trasferta a Verona, tu sei in studio regolarmente. Domani lì però, anch'io, insomma, però. Domani anche tu, domani, qua a Verona, ci diamo il testimone. Sì. Sono ore interessanti per il calcio, perché stasera c'è questa bella pagina di Champions, che ci racconti? Sì, una pagina di Champions molto bella, che è iniziata anche ieri con due grandi sorprese, e ne parleremo, perché il Liverpool, che sembrava imbattibile, addirittura ingiocabile, ha perso, quest'anno è la seconda volta che succede, in tutta la stagione, dopo aver perso a Napoli, ha perso anche ieri sera sul campo dell'Atletico Madrid 1-0 senza giocare granché bene. Ha perso anche il Paris Saint-Germain, altra grande favorita, 2-1 con il Borussia Dortmund, e doppietta di questo mostruoso giocatore ventenne che si chiama Haaland. Doppietta per lui, 10 gol in 7 partite tra Salisburgo. Tutti, sta già prima. Facendo sognare. Pazzesco, la pensione garantita di Mino Raiola, adesso che Ibra si avvicina, diciamo così, alla maggiore età calcistica. Lui? Sì, su anche lui. E quindi, domani ci sarà lì, tra l'altro, Andrea D'Amico, sarà lì dove sei tu con noi, e parleremo molto di queste cose. Noto procuratore di Giovinco, di Crescito e di molti altri. Beh, questo è grosso modo il tema, ripresa della Champions. Questa sera ovviamente a Milano partita, c'è l'Atalanta che gioca con il Valencia, da, diciamo sottovoce, favorita. Ci sentiamo dopo. Grazie Carlo, appuntamento con tutti i convocati dopo il GR delle 14. Piccolo break, torniamo tra poco con la pagina dei giornali internazionali insieme a Giulia Crivelli.